Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, stiamo... L'inno, voglio l'inno americano, voglio l'inno americano. Ecco, vuole l'inno americano. Voglio adesso te lo mettiamo. Ma questo vuole l'inno americano comunque, chiunque vinca, perché non è ancora ufficiale. Non è ancora ufficiale, però quello che è ufficiale è che la nostra categoria, i sondaggisti, Big Data Man, che girano... non siamo sondaggisti. No, la nostra categoria, virgola, i sondaggisti. Senti, te lo mettiamo un po' rock. Esatto, va benissimo. Oh, perché questo, perché celebriamo di... il fatto che i brutti, sporchi, i cattivi, i puzzolenti, quelli che non piacciono ai sondaggisti, agli ispirati opinionisti, quelli che interpretano il futuro, la civiltà, la Clinton che è al di sopra di ogni tipo di sospetto, che non ha mai fatto affare, eccetera eccetera, no, quelli votano comunque, cari colleghi, cari votano sondaggisti, votano anche i puzzoni. Stai dicendo che Trump è votato dai puzzoni? No, sto dicendo che è stata rappresentata così questa vicenda, come Brexit. Come è stata rappresentata, vissuta così. Basta vedere i titoli dei giornali che abbiamo qua. La maggioranza dei titoli dei giornali chiusi prima sono vecchiotti. E cosa dicono? Dicono Trump contesterà il voto, Clinton, i primi voti dicono Clinton. Se li sfogli sono così al 99%. Dicono tutto del fatto che il pregiudizio si è impadronito del più di chi dovrebbe stare un passo indietro e ricordarsi: lo vogliamo la sovranità popolare? Sì. E votano allora tutti. Bisogna capire che non si può dire che ci sono quelli buoni e quelli cattivi. Facciamo un breve riepilogo. In questo momento dati ufficiali, poi si sa che ormai è quasi certo ha vinto Donald Trump, ma i dati, cioè stati chiusi, secondo la CNN, Trump in questo momento ha sicuri 247 delegati contro i 215 della Clinton. Secondo Fox News sono un po' di più, 254. Deve arrivare a 270. Già se vincesse il Michigan, che ne dà 16, arriva a 270. Ma comunque sembra abbastanza chiaro ormai con la chiusura degli ultimi stati. Infatti la Clinton ha detto che non parlerà, e dove è il suo quartier generale, Podesta, sono andati via in lacrime. Ha detto non abbiamo più niente da dire. Esatto, per questo, sì. per ora no. Mentre dove no, c'è però Trump, hanno aggiunto un chiederemo il controllo di ogni voto. Si sono ribaltate le cose. Vero, cioè la vero. Parte che veniva attribuita a Trump adesso verrà esercitata, sì, dai diciamo democratici. Non c'è quello che avviene sempre, cioè il riconoscimento del voto. Non ci sarà. Non ci però sarà. Dove invece c'è Donald Trump atteso al quartier generale a Hilton, c'è un entusiasmo, come dire, pare che l'abbia già chiamato il Victory Party questo party, sì. No? Quindi è sicurissimo ormai. No, la Victory Party era già chiamato da ieri, a dire la verità, è anche un po' l'esorcismo che si fa nel chiamarlo così, sì. Poi si capisce che... Ma le facce che aveva Trump, per quanto possa voler dire la prossemica, ieri all'inizio dello scorso, non erano di uno convinto di faccia davvero, sì. Aveva una faccia più, molto più ottimista, e anche se nervosa, anche la moglie. Anche lui sondaggisti magari. Comunque vediamo come va, anche io credo che oramai sia fatta, ma quello che è stato evidente tutta la notte è stato il ribaltamento, le facce e i toni, sì, degli osservatori che si trovavano smentiti man mano che arrivavano i dati reali. E cioè è un fenomeno che si ripete troppe volte su elezioni troppo importanti di diverso tipo, sì, per non descriverci il fatto che c'è poco da fare. L'abbiamo visto per tanti anni anche in Italia che è così. In ogni caso, noi diamo il numero di telefono oggi, ovviamente microfoni aperti, indovinate un po' di che cosa parleremo. 800 24 0024, no? Del nuovo allenatore dell'Inter. 800 24 0024. Ovviamente noi sguardo alle TV, perché dovesse apparire Trump, però non credo che lo farà, perché insomma ci vuole un attimo la ufficializzazione. Non penso che dica abbiamo vinto prima che non siano proprio sicuri. No, poi forse i suoi... Aspetta, qui c'è un problema però, che il suo staff da questo momento deve iniziare a esercitare un certo controllo su quello, sì, che può dire, sì. Commentando i fatti per evitare che scoppino guerre mondiali. Comunque insomma diamo per quasi certa la vittoria di Donald Donald Trump. E diamo il buongiorno a Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, ora commentatore illustre sempre del Corriere della Sera. De Bortoli, buongiorno, grazie a tutti, secondo noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, già si parla di è l'anno della Brexit, è l'anno di Donald Trump, è l'anno delle, come dire, dei motivi, delle evidenze storiche ribaltate, dei fatti ribaltati. Diamo per scontato che sia Donald Trump alla Casa Bianca. Come dobbiamo considerare un fatto veramente così storico, De Bortoli? Ma intanto non dobbiamo avventurarci in previsioni, perché avendole sbagliate tutte, ma forse rischiamo di sbagliare un po' di moderazione ancora. Possiamo ovviamente prenderla come un fatto necessario, insomma, obbligato. Certo, abbiamo vissuto una notte che ha cambiato la storia, cioè il 9 novembre costituisce certamente un punto di svolta clamoroso, insomma, dagli esiti incerti. Insomma, dopo la Brexit è come se l'America fosse uscita, nel caso ovviamente di una vittoria di Trump, che però insomma, a questo punto mi sembra quasi scontata. Insomma, sì, sono abbastanza stupito dall'atteggiamento della parte democratica, insomma, perché è come se non volesse riconoscere insomma, la sconfitta di fatto c'è, insomma. Comunque, insomma, è come se ci fosse stata una sorta di uscita dell'America dalla propria storia, anche forse da quella che è stata la storia, diciamo, delle posizioni dei partiti dei paesi occidentali in questo scorcio di storia. Insomma, finora i due principali partiti condividevano, pur nelle differenze, gli stessi valori di fondo. Insomma, la vittoria di Trump ci porta a ridisegnare un po' tutto, insomma. E non è sconfitto oggi soltanto clamorosamente il Partito Democratico, ma anche questo è poi paradossale lo stesso Partito Repubblicano. Ah, totalmente. Perché pure insomma ha fatto man basta, insomma, fa una sorta di triplete, se possiamo chiamarlo sì, così. Certo. Insomma, ma no? Malgrado il fatto che tutto l'establishment del Partito Repubblicano era ostile a Trump, convinto di perdere, molti, i più del vecchio establishment, hanno dichiarato che votavano Clinton. Dopodiché la Clinton ha evidentemente pagato la sua identificazione totale con l'establishment, non l'ha aiutata, questa è un'altra cosa sulla quale dovremmo riflettere, almeno la prospettiva di poter diventare la prima donna presidente. Sì, il fattore donna proprio è stato subissato invece dall'essere la donna dell'establishment, del potere. Quello che possiamo dire è che insomma, qui tanti sondaggi è meglio non farli più. Insomma. No, meglio fare una moratoria assoluta sui sondaggi, perché evidentemente i sondaggi danno conto di quello che accade nella superficie della società, non vanno in profondità. Dobbiamo dire che chi si è sentito escluso dalla globalizzazione, impoverito in una società che è sempre più diseguale, è anche minacciato dall'immigrazione, perché non ha più fiducia nella capacità americana di fare questo melting pot, di assimilare nella cittadinanza americana. Insomma, c'è un atteggiamento che è un po' simile alla pancia europea, quindi dovremo capire che cosa succederà poi nel 2017 quando avremo le consultazioni in Francia, in Olanda e poi in Germania. Insomma. Sì. E quindi chi si è sentito escluso, insomma, ha scelto il candidato più impresentabile per gli altri. Prima Ferruccio De Bortoli, prima Oscar Giannino diceva giustamente 9 novembre muro di Berlino caduto, siamo al 9 novembre e prima Oscar diceva... È un 9-11 che è diventato un 11-9, esatto. Un po' di cabala in questo. No, poi attenzione che è anche il giorno del colpo di stato, il 18 Brumaio, Napoleone primo console. Voglio sperare che non finisca così, però... No, diciamo, è un evento di tale portata storica, possa essere ovviamente... sono paragoni teniamo conto, cioè, non abbiamo per esempio la svolta sul protezionismo, cioè le idee, cioè io immagino che poi dopo una volta eletto Trump modererà, smusserà qualche angolo, però le idee in fatto di libero mercato sono assolutamente preoccupanti, cioè è finita un'espansione della globalizzazione, del libero mercato, e comunque c'è un fortissimo impulso a tutte le misure protezioniste, pensate soltanto ai trattati internazionali, dal NAFTA al TPP, che però vengono ridiscussi. Del TTIP, quello ormai è morto, ma l'abbiamo fatto anche ucciso dagli stessi paesi europei, insomma. Però è come se il mondo dal punto di vista del libero scambio si chiudesse. Però la domanda è proprio questa, De Bortoli, ma davvero il presidente americano, pur essendo potente, può fermare, sembra quasi voler fermare un oceano con le mani, e la globalizzazione, però con Camera e Senato che restano repubblicani, guarda che non c'è un grande freno, perché visto che si beccano i voti, appunto. Intanto notizia di adesso pare che Donald Trump si sia aggiudicato anche il Wisconsin, confermando il suo successo. Dopodiché l'America va benissimo, praticamente non ha disoccupazione, siamo quasi alla piena occupazione. Insomma, Obama, l'altro sconfitto clamoroso, l'altro sconfitto clamoroso, Obama comunque aveva dei dati economici straordinari. Che cosa sarebbe successo se fosse in recessione l'America? Insomma, no, invece va benissimo. Io immagino che poi qualcuno farà i conti che poi chiudendosi ci si impoverisce tutti. Immagino che poi una volta eletto Trump qualche ragionamento da imprenditore pragmatico possa fare. Speriamo. E comunque vince anche possono in qualche modo irretire. Vince anche un presidente che con meno enfasi rispetto all'immigrazione e al commercio mondiale da invertire, per così dire, come flusso. Certo. Però quando ha parlato poi della NATO e dell'Unione Europea, per noi europei dovrebbe essere cavoli amari se fa davvero quello che dice. Cavoli amari, però noi non potevamo pensare di andare avanti per sempre a far pagare al contribuente americano la difesa europea, no? Insomma, scusa un attimo, ma anche perché il dopoguerra è lontano, insomma, quindi io spero che questo sia anche una sveglia all'Unione Europea. Sì. Temo invece di che invece ci sarà qualcuno che dirà vabbè, insomma. E poi soprattutto il voto è diventato, cioè nelle democrazie occidentali, il voto è diventato l'occasione per dare un calcio all'establishment, non per scegliere. Tra l'altro, un calcio all'establishment. Io che scelgo anche il candidato che gli altri giudicano, quelli che non voglio votare, giudicano peggiore, impresentabile, sì. come il tycoon Trump, insomma. Ma è il modo di sferrare un pugno a quelli che io non sopporto più. E forse questo tipo di disagio, questo malessere, noi l'abbiamo sottovalutato. Fuori. E la sconfitta anche dell'informazione. Noi nel Breaking News. È ufficiale, Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti con l'arrivo dei voti del Wisconsin che confermano il suo successo nel Midwest. Conquista quindi altri 10 grandi elettori, arrivando a 277. Lo ricordiamo, ci volevano 270 grandi elettori per vincere la presidenza degli Stati Uniti. Il Wisconsin aveva sempre votato per il Partito Democratico per 7 elezioni consecutive. L'ultimo candidato repubblicano a vincere nello Stato fu Ronald Reagan. Insomma, con questa elezione, con questo voto del Wisconsin, Donald Trump è presidente degli Stati Uniti. Allora, grazie a Valentina Furlanetto per l'ufficializzazione. Sai che giocando con la cabala, e ringraziamo ovviamente Ferruccio De Bortoli, giocando con la cabala, caro Oscar, oggi è 11-9, cioè, diciamo Valerio Osiello. Qualcuno ricorda il 9-11? Sì, ma infatti anche Ferruccio ci ha ricordato. Capisci che tutto si tiene, tutto si tiene. Caduta del muro di Berlino. Napoleone primo console, Trump che diventa presidente. Allora. Adesso, tra l'altro, un'altra cosa da vedere, sai, noi ci hanno detto per anni in Italia che gli Stati Uniti, ove avessero mai eletto un Berlusconi americano, con Trump più o meno ci siamo su molte cose, non avrebbero mai riservato al proprio Berlusconi un'offensiva mediatico, giudiziaria, tanto aspra come quella che Berlusconi ha lamentato di aver subito in Italia. Vediamo se davvero adesso succede così, perché dai primi toni democratici e degli intellettuali, vediamo se non si ripete su vasta scala anche in America quello che è accaduto in Italia. C'è una spaccatura verticale. Krugman ha già dichiarato con Trump sarà recessione pura mondiale. Vediamo se davvero l'America non ci riserva purtroppo anni di spaccatura violenta. Comunque, la Associated Press ha comunicato ufficialmente Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti. La CNN è ancora un po' più prudente, dice che deve ancora vincere. Quindi è ufficiale, abbiamo una first lady che, malgrado il marito, ha lavorato negli Stati Uniti come clandestina, perché lo sai che è questo. Ah, sì, è vero. Quindi è vero. La mara vittoria di chi diceva che sugli immigrati la sbagliava Trump. La caccerà per prima. Non credo, no, per una serie di ragioni, non credo, ma insomma. Noi rimaniamo qui, state con noi perché riprendiamo tra un attimo ospiti, ascoltatori e Donald Trump. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, Alessandro Milan e Oscar Giannino, siamo qui. All'indomani di una bella decisione della Corte Costituzionale che dice che basta con la legge che dà l'automatico cognome del padre ai figli. Io sono d'accordo. Quindi, attenzione, i tuoi figli li devi rinominare. Io penso che credevo che avessero approvato nel frattempo la proposta di legge che è stata approvata alla Camera e si è bloccata al Senato, che consentiva di dare il nome della madre. Invece non è avvenuta, allora, ma la Corte adesso ci dice di farlo. Nel frattempo, Hillary Clinton Clinton ha chiamato Trump concedendogli la vittoria. Mario Platero, eccoci qua, Mario. Allora è tutto, eccoci, è tutto ormai, eccoci, fatto. Il dado è tratto, Mario. Il dado è tratto, caro mio, cari miei, anzi. Beh, direi Donald Trump ha compiuto il miracolo, ha compiuto la rivoluzione, perché si tratta davvero di una rivoluzione. A questo punto il dato è ufficiale, lo dicevamo prima, ci eravamo avventurati, no? con un'anticipazione di questa vittoria, e a questo punto è fatta. Ma io voglio sentire il mio amico Oscar cosa ha da dire, perché era un po' preoccupato. Trionfo, Mario, perché l'opinione è che sono abbastanza convinto che non vedremo sui trattati transnazionali del commercio quello che davvero ha detto per prendere i voti. Mi preoccupa che abbia Camera e Senato totalmente a favore, ma questo significherà che bisogna vedere un pochino come riescono ad automoderare. Però è un'ottima cosa che sia stato sbaragliato l'establishment repubblicano, che non ha capito per anni i segnali che gli arrivavano dal suo elettorato e che ha votato per l'altra parte, tutta gente che non si potrà più vedere nell'establishment repubblicano. E devo dire, la sicumera con cui i democratici hanno creduto che i difetti fondamentali di Hillary e del suo circolo di potere potessero essere non visti per i difetti congeniti di Trump, anche questo che sia stato sbaragliato, secondo me sono tutte cose positive. Attenzione, perché adesso Trump deve cambiare marcia ed evitare per così dire occasioni di conflitto mondiale. Comunque, con quello che Mario, dice, è arrivata proprio questa chiamata, no, della Clinton, e questa è l'ufficializzazione. Sì, questa è l'ufficializzazione. Devo dire, meno male, perché il paese in questo momento ha bisogno dell'unità, ha bisogno di un recupero di credibilità. Abbiamo a Washington un triangolo, non c'è soltanto il Partito Repubblicano spaccato. Vai avanti, siamo in diretta. Dicevo, a Washington non c'è soltanto la spaccatura all'interno del Partito Repubblicano, c'è un triangolo che vede da una parte i democratici, dall'altra il Partito Repubblicano spaccato in due, perché comunque sia Senato e Camera restano sotto il controllo della leadership del partito, che si era opposta a Donald Trump. E quindi qui è importante che questi signori da ogni parte capiscano qual è il messaggio forte, duro, violento che è arrivato dagli americani, dalla pancia del paese, e cioè che non si può più perdere il tempo e non raggiungere dei compromessi per il risultato. Ci vuole il risultato. Finora è stato solo muro contro muro, e d'altra parte Trump non sarà un personaggio facile, dunque non so quanto si riuscirà a arrivare a questo compromesso, che però mi sembra indispensabile. Tra l'altro, Mario, vediamo le immagini dall'hotel Hilton, dove Donald Trump tra poco parlerà. Sono le 2:43 del mattino lì da voi. Gente entusiasta, folla, ovviamente. Quando si è sparsa la notizia della telefonata di Hillary Clinton, quale entusiasmo, è esploso, ovviamente. È esploso Giuliani prima, l'ex sindaco di New York, che era uno rimasto quasi solo a sostenere. Cioè, eccoli qua, guarda che stanno uscendo. Tra poco iniziano ad arrivare alcuni, e tra poco rivedremo Donald Trump. Infatti Giuliani, tra l'altro, ci saranno una serie di personaggi che in qualche modo sembravano così essere destinati a scomparire. Per esempio Rudy Giuliani, che improvvisamente avranno un ruolo forte in questa amministrazione Trump. Ci saranno delle nomine a sorpresa, ci saranno dei ministri che probabilmente non avrebbero neanche potuto immaginare di farlo. Mi viene, come dire, c'è una grande ironia, nel senso che Larry Fink, grandissimo banchiere newyorkese, grandissimo esperto, uomo di grande credibilità con i mercati, era il candidato per fare il segretario al tesoro di Hillary, ma Elizabeth Warren si era opposta. Ecco, si troveranno a questo punto con dei personaggi ancora più imprevedibili. Nel frattempo Pence sta sul palco, è lui che sta aprendo il dibattito. Ecco. Mario, facciamo così, intanto ti ringraziamo molto, e in attesa di Donald Trump. Grazie Mario. Grazie a voi. Grazie per tutto quello che hai fatto stanotte. A questo punto, sì, ovviamente grazie per tutta questa campagna elettorale. E Pence, vogliamo giusto sentirlo? Ovviamente poi parlerà Trump, questo è il vicepresidente designato, e questo è il clima che c'è nel quartier generale. America has elected a new president, and it's almost hard for me to express the honor that I and my family feel. that we will have the privilege to serve as your vice president of the United States of America. Ovviamente lì con la famiglia, no? Esprime proprio questa emozione, no? Per il nuovo presidente. Come vedi, pensa una persona, per me non è un gran parlatore, come vedremo. I come to this moment deeply humbled, grateful to God for his amazing grace. Dio, ovviamente. Dio subito, il primo ringraziato è Dio per la sua enorme grazia. La moglie. Our son Michael and his fiance. Figli, il figlio con la fidanzata. Our daughter Audrey. La figlia. Far away in our, pensa qua con tutta la famiglia. Si è portato la famiglia, giustamente. I could not be here without them. Vabbè, dai, allora ecco. Facciamo così, in attesa di Trump. Vogliamo salutare intanto, caro Oscar, gente. Marcello Foa, che è direttore del Corriere del Ticino, ha un blog molto seguito, un grande conoscitore delle cose americane e tra poco delle elezioni americane, tra poco sarà con noi. Oscar, è qua. La rivoluzione, cioè, la rivoluzione, tu hai detto sì. A Platero, sai che ha votato per la prima volta Platero? Sì, sì, lo so. Sappiamo che ha votato per la votato dai, per secondo la me ha votato per però la va bene, d'accordo. Io già vedo domani sui giornali italiani i pensosi editoriali sui destini del mondo, le guerre mondiali descritte, sì, eccetera eccetera. Non credo che schiaccerà il bottone per l'atomica senza che nessuno dica no, scusa Donald, forse eccolo qua Donald Trump. Allora aspetta, Marcello Foa c'è? Marcello Foa. Eccoci sono, qua, ciao Marcello, siamo io, Oscar Giannino, Alessandro Milan, siamo qui, certo che sta arrivando Trump, dici intanto la una moglie, cosa, quando parla Trump dobbiamo fermarci, te sì, l'aspettavi sì, certo. Tutto questo? Sì, io sono, l'ho scritto anche sul mio blog, sulla pagina Facebook, in realtà Trump ha intercettato benissimo quella che erano gli umori, le aspettative, le esigenze e la delusione profonda del popolo americano, che è stata negata dai grandi media, dai sondaggi, per cui secondo me non è una sorpresa e forse la classe governante, l'elite americana dovrebbe chiedersi perché continua a fallire. Esatto. Vediamo Donald Trump che sta arrivando con un suo codazzo, come dire, anche di... Diciamo dire, di la moglie già sbaglia l'abito. La moglie ha un pigiama palazzo stile moglie di Berlusconi che non Marcello, va bene. Marcello, ma qualcuno, vieni qua e le due figlie, una minigonna scellare. C'è bisogno di un consulente su questo, ufficiale. Vabbè, no, Marcello, quindi tu te lo aspettavi e la Clinton, esatto, non è neanche funzionato il cosiddetto fattore D, fattore donna. Proprio, è stata vista non come una novità, no Marcello? Beh, certo, Hillary suscita un'antipatia enorme, gli americani vedevano in lei una leader corrotta, perché purtroppo quel che è emerso dalla campagna elettorale è anche questo, almeno il sospetto che lei fosse corrotta, e soprattutto quando la gente ha la pancia piena, poi si lascia sedurre dal fatto che una candidata è donna, o dai richiami delle grandi star della televisione, del cinema, della musica, che sono andati gli ultimi giorni, sì, a far campagna per Hillary. Quando però il malessere è profondo, è radicato, è diffuso, com'è negli Stati Uniti, soprattutto nella classe media, no, non c'è richiamo di propaganda che funzioni. La gente in America è arrabbiata, è delusa, è impoverita, ha creduto 8 anni fa in Barack Obama ha deluso e allora è stato questa volta punito. Ha creduto altra. Marcello, ti ringraziamo. Le prime parole del 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, sotto l'urlo USA. Oscar, non so se tu sei d'accordo, non lo traduciamo, sono due o tre parole. Sentiamo. Donald Trump. Sorry to keep you waiting, complicated business. Complicated. Thank you very much. Chissà se riesce a parlare dell'entusiasmo della folla. I've just received a call from Secretary Clinton. La telefonata della Clinton. Per dire hai vinto tu, chiaramente. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard fought campaign. I mean, meno male. Reciproche, no, tra la Clinton per la vittoria. Ha reso gli onori per la dura campagna, ma comunque gliel'ha fatto in maniera ferma. Very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. Ah, la ringrazio ancora per tutto per il lavoro che ha fatto, per il paese. Per il paese, nessun carico ufficiale di governo. Queste sono le prime parole. For America to bind the wounds of division, have to get together. Quindi, contro le ferite della divisione. And independence across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. Ecco, appello all'unità del paese. Basta la divisione della campagna elettorale. Stiamo insieme come un'unica nazione. I pledge unita to every citizen of our land that I will be president for all Americans. Giuro che sarò and presidente this is so important to me. È il presidente di tutti. Not to support me in the past, of which there were a few people. I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. L'appello a lavorare insieme e unificare la nostra grande nazione. From the beginning, ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement. Made up of millions of hard-working men and women. Siamo un movimento di lavoratori. Questa è la rivendicazione del fatto che non c'è un solo partito. Io l'ho fatto insieme a voi, esatto. Da siamo capo. Un è una cosa nuova nata con me e con voi. It's a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds and beliefs who want and expect our government to serve the people, and serve the people it will. Un movimento che servirà il popolo. No, servirà il risultato, chi dice che il governo serve a servire il popolo, e no, e così sarà il nostro governo. Vabbè. Comunque, per il momento non c'è l'ombra della retorica dei temi divisivi. Anzi, ha assolutamente quello istituzionale, direi. Fatto un ringraziamento totale alla Clinton. That is now what I want to do for our country. Tremendous potential. I've gotten to know our country so well. Tremendous potential. It's going to be a beautiful thing. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Il sogno americano, cioè ogni uomo nessun e donna americano potrà, è un po' come potrà realizzare Marines, il proprio sogno. Sai, il motto dei Marines è nessuno sarà lasciato solo. Lui è americano al cubo, quindi and no, we build capisci. Our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure. Poi iniziamo nel programma, become, costruiremo le nostre infrastrutture. By the way, second to none. And we will put millions of our people to work as we rebuild it. Daremo lavoro a milioni di persone mentre ricostruiremo ponti, infrastrutture, strade. Finally, take care of our great veterans. Ci occuperemo dei nostri veterani, i veterani. So loyal, and I've gotten to know so many. Ce ne sono molti, i veterani delle guerre americane, ovviamente. The time I've spent with them during this campaign has been among la prima my cosa di cui si occupa, dice, i veterani, li sta ringraziando. Valori della destra sono valori della destra. Growth and renewal. I will harness the creative talents of our people, and we will call upon the best and brightest to leverage their tremendous talent for the benefit of all. It's going to happen. Va bene, queste sono le prime dichiarazioni. Economic plan. Ecco il piano economico. Vediamo il piano economico. Raddoppieremo la crescita, dice Trump. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. Andremo avanti con le altre nazioni che vogliono fare un percorso però, diciamo, economico con noi. Siccome i mercati vanno male, come esatto. Questo tenta di rassicurarli. No challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach. America will no longer settle for anything less than the best. Non guarderemo a niente di meno che al meglio dal punto di vista della ricchezza, del benessere. Dobbiamo ricostruire il destino del nostro paese. We have to do that. We're going to dream of things for our country. Sogneremo cose per il nostro paese. Per chi ci sta ascoltando, diciamo che ci sta ascoltando che Trump sta improvvisando a braccio. No, è chiaro, è chiaro. Questo non spiega il suo editore generale, cioè non ha niente in mano e non sta leggendo neanche da un teleprompter. With everyone, with everyone. all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. And now I'd like to take this moment to thank some of the people who really helped me with this, what they are calling tonight, very, very historic victory. Momento e vittoria First, storica. I want to thank my parents, who I know are famiglia. I genitori, prima. Ringrazio i genitori. Great people. Grandi persone. I've learned so much from them. Ha imparato molto dai genitori. They were wonderful in every regard. I had truly great parents. Vabbè, I also want to thank my sisters, Marianne and Elizabeth, le sorelle with us tonight. Che sono lì sul palco. And where are they? They're here. Dove sono? Non le trovo. They're very shy, actually. Sono molto timide. And qui my brother Robert, si sono nascosti. My great friend. Where is Robert? Where is Robert? Il fratello Robert, eccolo my qua. Lo Robert. Indica. Vabbè, lo ringrazio. And they should all be on this stage, but that's dovrebbero okay. Essere tutti sul palco, ma sono timidi, they caro Oscar. Ma come, una volta che vinci? Fred, great guy, fantastic guy. E poi chi ringrazia, vediamo un po', alla fine arriverà Melania. Pensa al tripudio che ci sarà. Brothers, sisters, anche se secondo Oscar ha sbagliato parents. Il vestito. Vabbè. Sì. To Melania. Eccola. And Don. Ecco la standing ovation. Applaudo anch'io Melania, si può. And Ivanka. Anche Ivanka. Bravo. Anche and Derek. Derek, vabbè. And ragazzino. Tiffany. And Baron. Poi ci sono 30 persone sul palco. Thank you. Ringrazio a tutti. And especially for putting up with all of those hours. This was tough. Per aver aspettato anche tutte queste ore. Molto dure. Effettivamente sono le 3 di notte. This political stuff is nasty and it's tough. So I want to thank my family very much. Really fantastic. Thank you all. Thank you all. And Lara, unbelievable job. Unbelievable. Vanessa, thank you. Effettivamente, minigonne inguinali, eh.